Noi ha appena occupato lo scorso aprile il grande edificio di ex Banca Etruria in Corticella, avevamo fin da subito avanzato delle proposte pubbliche che sono ancora visibili nei nostri comunicati e che erano stati pubblicati anche dalla stampa locale, anche voi ne avete dato notizia, ovvero ponevamo la proposta di una custodia sociale, ovvero di fronte a un edificio, tra l'altro di una proprietà molto discussa, Banca Etruria, abbandonato da 20 anni, noi chiedevamo di poterlo prendere in custodia e rigenerarlo dal basso, ovvero farlo diventare un luogo di partecipazione pubblica, di aggregazione giovanile per tutte le età, ricco di laboratori, di eventi, eccetera, eccetera. Quindi la nostra proposta era molto limpida e chiara e tra l'altro avevamo fatto anche delle aperture rispetto alla nostra disponibilità di pagare una sorta di affitto sociale e anche di ragionare insieme sulle modalità della nostra permanenza. Per noi era un passo importante perché all'interno di una campagna più ampia che possiamo dire che dura ormai da anni e anni, forse dalla prima occupazione del laboratorio Crash abbiamo iniziato a sollevare questa istanza, si parla del 2003, facevamo riferimento proprio alla questione delle grandi proprietà che nella periferia di Bologna lasciano grandi edifici abbandonati e molto spesso vengono gettati nel tritacarne della speculazione, ovvero si attende le quote del mercato immobiliare, si gioca con questi immobili vendendoli e riacquistandoli eccetera eccetera per speculare, insomma ci sono tante storie di edifici che ci raccontano di questa situazione e noi con questa proposta invece sollevavamo l'istanza di una rigenerazione dal basso, dell'apertura di questi spazi e della possibilità di essere attraversati dai residenti e dalla cittadinanza al posto che essere dimore di piccioni e topi. Ecco, questo è stato ad aprile, abbiamo cercato tramite anche il nostro ufficio legale di contattare la proprietà, più e più volte abbiamo avanzato questa proposta, a volte anche ridefinendola, però all'incirca questo era diciamo il concetto dell'istanza che presentavamo e negli scorsi giorni abbiamo avuto il no più secco che finora non c'era stato dato e a quel punto ci siamo riuniti in assemblea consapevoli che già in estate era stata fatta dalla procura un'istanza di sequestro e quindi considerato imminente lo sgombero abbiamo pubblicato un comunicato dove abbiamo sollecitato gli enti locali ad assumersi anche qualche responsabilità politica un po' su questa situazione. Tra l'altro poi passeremo anche alle proposte che avete fatto per il futuro, però intanto una piccola battuta sul fatto che a fianco al posto che appunto probabilmente dovrete lasciare a questo punto si trova anche l'ex laboratorio sgomberato 2 estati fa in via della Cooperazione, che anche quello appunto poi è stato abbandonato almeno finora. Chiederei anche quanti sono gli sgomberi che finora avete subito. Sì, come laboratorio Crash abbiamo subito 12 sgomberi. La prima occupazione è del tardo autunno del 2003, c'era ancora Guazzaloca e da quella giornata di occupazione che poi terminò con uno sgombero lampo inizia la nostra esperienza che negli anni ha, tra le altre cose, continuato la grande battaglia sul tema degli spazi abbandonati nella periferia, soprattutto nella periferia nord della nostra città, quartiere San Donato, ma poi la maggior parte dei laboratori Crash occupati sono stati al quartiere Navile. Invito chi ci sta ascoltando di passare proprio in via della Cooperazione, come citavi anche tu, è lo spazio che ci ha ospitato, diciamo così, per più tempo, siamo stati là quasi 10 anni, è stato sgomberato 2 estati fa e adesso è dimora veramente di topi e piccioni e varie faune, insomma. Poi, se si vuole continuare un po' questo tour della vergogna, si può andare in via Zanardi, subito dopo il passaggio ferroviario, c'è un altro Crash, c'è un Crash che ha visto la nostra esperienza maturare per almeno 3 anni di iniziativa e di tante attività, è stato sgomberato e anche in quel caso è rimasto abbandonato. Quindi per noi è chiaro che si tratta di un problema politico di interesse collettivo molto importante che anche di fronte alla scelta che abbiamo fatto in questa occasione continuerà a essere uno dei primi argomenti delle nostre attività e delle nostre battaglie anche per il futuro. E invece parlando appunto del futuro, voi vi state proponendo per l'ex centrale del latte in via Corticella e nel frattempo avete chiesto, in realtà vi è stato dato, se ho capito bene il comunicato, uno spazio all'interno delle caserme rosse. Sì, hai capito bene, nel senso che noi quando ci siamo trovati di fronte a questa situazione abbiamo fatto un po' una lunga assemblea dove abbiamo cercato di tirare un po' le somme, capire un po' che cosa fare, e nel dibattito che abbiamo avuto è prevalsa l'idea che questa ultima esperienza soprattutto di occupazione, seppur breve, che c'è stata lì a ex Banca Etruria, ci ha dato dei dati molto importanti, ovvero una partecipazione significativa del territorio, una creazione molto repentina di relazioni, di reti, di nuove sensibilità, di voglia di costruire nuovi progetti, e quindi ci siamo detti come facciamo a non disperdere tutta questa ricchezza che si è accumulata in questi mesi. E allora abbiamo avanzato la proposta di cui ti riferivi, insomma abbiamo avanzato la proposta che di fronte al rischio di uno sgombero e quindi all'eventuale dispersione di questa ricchezza ci fosse da parte dell'amministrazione pubblica un'assunzione di responsabilità per dare continuità a questa esperienza. E così è stata, c'è stato proposto una parte delle caserme rosse che è di fatto la dimora temporanea del laboratorio Crash per le prossime settimane, dove continueremo a fare una buona parte delle nostre attività, e nello stesso tempo ci proporremo nel contesto dei laboratori di quartieri per l'ex centrale del latte sempre in via di Corticella. Quindi è un po' un'unica idea che ci ha dato un po' l'indicazione su come muoverci di fronte al rischio dello sgombero, ed è proprio quella legata alla presa in cura di queste relazioni, di queste reti che si sono prodotte, che hanno coinvolto e stanno coinvolgendo tanti residenti, giovani ma anche di tutte insomma le generazioni, e che quando ci siamo detti come facciamo a non disperderle, la risposta è stata proprio questa, insomma tentare questo passaggio qua e adesso lavorare per avanzare una proposta legata all'ex centrale del latte, che ci auguriamo sarà la nuova casa del laboratorio Crash, che non avrà all'orizzonte come dire nuovi sgomberi o la precarietà di essere sempre sotto sgombero. Insomma, 12 aggressioni repressive direi che possono bastare. Ci auguriamo che in futuro avremo la possibilità di esprimere un po' tutte le nostre potenzialità, possibilità dell'autogestione dei progetti che maturano dentro un centro sociale come il nostro.